Allegri. Vabbè, no, è un baracchino questo. Ogni tanto mi facciamo funzionare. Vabbè, l'altro c'ha un potenza anche di questo. Qua sono 5 bassi, mi sono le sotto. Basta, ne avanza a macchi. E tu mi girella? Tutto col carico. Tutta la notte. Cavolo, gli accelerati no, ma allora. Tieni, monta. Ma non sono uscendo oggi. Infatti, sembrava un altro, invece tu mi ha unito e mi fa sempre lo stesso rumore. E allora ti conviene cambiarla. Infatti ti ho detto poco fa, ma tutta la notte e allora ce ne sta tanto di remorchi. Ma tu c'hai altri problemi in quella radio, perché si abbassa di segnale anche, si abbassa. Poco fa mi arrivava meglio, vabbè, ti aspetto. Allora ti tocca a tarotto. Io ho finito da tanto di quelle notti. E Gianluca più l'hai visto? Io ce l'ho chiamato qualche volta, ma non risponde mai. Probabilmente non sta lavorando, io non mi ricordo più i turni suoi. La radio lì, su 12, lui era sempre acceso lì. Poi queste sere lo chiamo a vedere al telefono. Lo chiamo dopo. E prima c'ero io lì, quando stavamo lavorando tutti e due, ce ne andavamo al PMR, oppure qualche volta alla 27. Cosa devi fare? Ma la gente non decide con la sua idea di metterlo, mica li convince. Secondo chi lo dice del barattino di 0,6, non strampi. Quella con l'applicazione è uno schifo, è un casino totale, sembrano dei canali di turci, parlano male, si azzuffano, si minacciano, sì, sull'11 sono tutti campionisti, e quindi parlano tutto di campo e queste cose qua. Infatti quelli che ci sono all'1, al 2, quelli lì li hanno criticati perché dice parlano sempre di campo, e invece loro parlano di altre cose. Ma lasciamo perdere, va, non lo dico qua, neanche a paragone a quell'applicazione, e lo credo già Eugene. E tutto è metterti in moto, poi una volta che giri la chiave, allora tutto è iniziare, poi viene in automatico, è come eravamo noi quando arrivavamo, prima di arrivare lì, mi dicono una giugata, una giugata, come se ti viene in moto, non ti fumava più, la giugata dell'anno scorso, tutta un'altra storia, benissimo. Altro che, non pensi più a pisatine, non pensi a nulla, se ne hai voglia l'indomani vai e te ne vai in giro, se non hai voglia ti rimani a casa, se no ti biasi vai. E i primi mesi te lo fa, poi già ti abituisci. Ti abitui, piano piano, vedrai che ti abitui. Primi mesi è dura, perché una volta io ho messo la sveglia mi stavo mettendo, dicevo, te ne chiamano così bene. E allora, normalmente si aggiunga la sveglia, vai vivo. Mettila da parte. Sei 30 anni, sei 10 anni. A meno che non ne hai altri prima di entrare lì. Non è che ti manchi tanto, lo so, basta non pensarci. Vai, tutte le mattine a lavorare, facciamo gli anni, non te ne accorgi neanche, vedrai. Come no, se tu raggiungi tutta l'età, raggiungi non l'età di gli anni, no, tu raggiungi l'età pensionistica, i contributi, tu ci devi mandare una settimana alla Maragana, se tu arrivi a 42 anni e 7 mesi, a meno che non aumentano. Se provi intendi, a meno che la tua società non fa qualcosa per altri, qualche scivolo o qualcosa, allora tu dovrai andare prima, ma se no, però se tu hai i contributi, vai tranquillo, mi hai finito di pagare i contributi, vai tranquillo che ti ci mandano, anche se non hai l'età. Allora ne hai tu, non è, se mancano altri 10 anni, vabbè devi fare 10 anni a 40 anni. Io dicevo, va 12 anni e mezzo qua, senza quasi. Allora, non conviene neanche pensarci, conviene, l'unica cosa è che si conviene sempre controllarti i contributi, se te li stanno versando e come te li stanno versando. Quello già te li devi controllare. Vabbè, ci sia mai. Qualche cosa che può essere anche qualcosa fuggita, a me una volta, a me mi mancavano roba di contributi, mancavano di una ditta, e siccome è ancora in piedi, però è un altro pallone, eppure tramite quello lì me li hanno dati, meglio così, almeno non hai problemi. Quello mi sembra che era scaduto, per quelle domande lì. E poi ci ha detto, la rifaranno, penso la rifaranno quella lì. Ma io sono uscito con quella lì, sono uscito. Con quella e quella precoce. K, non devi superare, sai superare, avere due anni mi sembra che erano, sì. Io ne avevo quasi 4 anni. Avevo 14, quasi 15 anni, ci avevo, e me ne sono provati tutti quelli però, me ne sono provati. Infatti loro stesso hanno all'Inpsi, quando sono andato a dirgli, l'hanno detto, cioè, no, abbiamo visto i contributi, ci sono, e gli diamo anche quello. Io ho 65 anni, però sono andato anticipato, io dovevo andare a 67 anni, a 3 anni mi sembra che sono, 3 anni, e invece le precoce 2 anni. Ciao Luigi, buon lavoro, ci sentiamo.